Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Uno sforzo intensissimo, siamo partiti da poco e niente, ma lavorando ininterrottamente, 24 ore appunto con 150 uomini per strada a Milano, siamo riusciti a restringere prima il campo e poi a esercitare una pressione investigativa totalmente alta che la persona si è vista costretta a presentarsi in procura con un avvocato per ammettere di essere l'autore di una violenza sessuale ai danni di una ragazza. Questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è un'ennesima storia paradossale, se vogliamo, no? In qualche modo, che c'entra con le decisioni, più o meno, credo, di giudici, della magistratura. Comunque, questo che avete sentito è Lorenzo Bicossi, che è dirigente della Mobile di Milano, che ha parlato dell'arresto di quest'uomo di 40 anni che è conosciuto come il maniaco dell'ascensore, che aveva veramente creato il panico a Genova negli anni scorsi, perché era stato protagonista di una ventina di aggressioni sessuali. Era stato condannato a 12 anni di carcere, che erano stati poi anzi 16 anni, che poi erano stati ridotti a 12 e poi a 8 anni, e da un po' di tempo era tranquillamente a piede libero, libero appunto di molestare. L'ultimo caso, questa povera ragazzina tredicenne che è stata violentata ieri, c'era sempre il solito copione: lui aspettava ragazzine che uscivano dalla scuola, le seguiva fino a dove abitavano e poi nell'ascensore avveniva la violenza. Allora, quello che c'è da chiedersi è com'è che uno che è considerato un violentatore seriale, si è fatto pure un numero ridotto di anni di carcere, ma lo si vuole almeno attenzionare, controllare, o il braccialetto elettronico, insomma, di tanto in tanto controllare che fa. Ne parleremo con il sottosegretario alla giustizia Ferri, perché in questi giorni vi ho sottoposto vari casi piuttosto controversi, no? di ordinaria giustizia o ingiustizia a seconda dei punti di vista. Comunque ne parleremo con il sottosegretario alla giustizia e poi ci collegheremo fra i vari collegamenti con la Catalogna, perché mancano due giorni a questo referendum così osteggiato, anzi drasticamente vietato da Madrid, il referendum per l'indipendenza della Catalogna. Ci sono già delle occupazioni da parte degli indipendentisti, insomma la tensione cresce e capiremo a che punto è la situazione a Barcellona. Poi c'è il meteo, mille altre cose, quindi non perdo altro tempo ad anticiparvi le cose di cui parleremo e tantissime cose che ci sono questa sera nella puntata di Effetto Notte. Per voi lo sapete, per interagire qui con Effetto Notte, pagina Facebook del programma, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Riassunto della giornata. Spagna, due giorni da referendum per l'indipendenza della Catalogna, vietato da Madrid, cresce la tensione, gli elettori occupano i seggi e dicono: se ci bloccate troveremo un'alternativa. Il G7 a Torino, cortei di protesta di studenti e Notav, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti. Stati Uniti, stop ai viaggi a Cuba, Trump verso il ritiro dei diplomatici dall'Havana. Pedofilia, il Canada emette un mandato di arresto per Monsignor Capella, il diplomatico è stato chiamato da Washington in Vaticano. Roma, l'organismo di revisione boccia il bilancio della capitale, ma l'assessore commenta: fanno politica, noi andiamo avanti. Il violentatore seriale arrestato a Milano tra il 2004 e il 2006 diventò l'incubo di Genova con oltre 20 aggressioni a sfondo sessuale, e ora, dopo l'ultima violenza su una tredicenne, dice: sono malato, curatemi. Inquinamento, in Italia l'aria più sporca d'Europa e record di morti, emerge dal rapporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Cominciamo quindi dalla Spagna, due giorni dal referendum per l'indipendenza voluto dal governo della Catalogna e vietato da Madrid, appunto cresce la tensione, gruppi di cittadini hanno iniziato in questi momenti a occupare pacificamente alcuni seggi del referendum di domenica per evitare che vengano chiusi dalla polizia. Intanto in Mossos de Squadra, la polizia catalana, è intervenuta pure pacificamente comunque in alcune scuole, riferisce così la TV pubblica TV3, per chiudere i cancelli ed evitare nuovi ingressi. Ci collegheremo, come vi dicevo prima, con Barcellona più tardi, proprio nel pieno della manifestazione che è stata indetta per stasera. Intanto occupiamoci di altre tensioni di altro tipo. Al G7 di Torino, scontri tra manifestanti e polizia al corteo anti G7, quando il corteo ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'albergo dove sono ospitati i partecipanti al summit di Venaria. Fermati due manifestanti, uno è minorenne, e poi i ragazzi, gli studenti e in ottava hanno occupato l'Università Palazzo Nuovo di Torino per farlo diventare la base per le prossime iniziative di proteste. Anche con Torino ci collegheremo per sentire a che punto sono queste manifestazioni, visto che sono state annunciate dagli organizzatori ben 3 giorni di proteste. Ora il vertice di Tallinn su economia digitale per cercare di dare una tassazione equa ai giganti del web. Ampia convergenza sul digitale non solo per i cittadini ma anche per la cybersicurezza, per gli attacchi di hacker e terroristi. Ma dal vertice europeo di Tallinn emerge il nodo di giganti del web che sfuggono a miliardi di tasse spostando la residenza in quegli stati membri dove le aliquote sono molto più basse, come Irlanda e Lussemburgo. Francia, Germania, Italia e Spagna sono pronte ad andare avanti da sole per tassare i giganti della rete. Così all'arrivo al summit il premier italiano Paolo Gentiloni ha confermato l'intenzione dei 4 ad andare avanti. Web tax, c'è una proposta della Commissione, dobbiamo andare avanti su quella proposta, ma i singoli paesi non solo possono, ma devono lavorare in coordinamento tra loro anche nel senso delle cooperazioni rafforzate. Le tasse vanno pagate dove sono dovute, ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, anche in riferimento ad una possibile cooperazione rafforzata suggerita appunto dal premier Paolo Gentiloni, se non ci fosse un accordo condiviso. Ma ha annunciato la Commissione europea, come promesso, presenterà l'anno prossimo nuove regole per una tassazione equa e penso avremo un accordo all'Ecofin che si occuperà, dice Juncker, del dossier. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora negli Stati Uniti, con la decisione dell'amministrazione Trump nei confronti di Cuba, cioè reagire ai presunti attacchi ricevuti dal personale americano sull'isola con il ritiro del personale diplomatico. Gli Stati Uniti hanno interrotto il rilascio dei visti a Cuba, hanno bloccato i viaggi di delegazioni ufficiali e ordinato al 60% dello staff dell'ambasciata americana a La Habana di lasciare la sede di rappresentanza. Washington sconsiglia inoltre agli americani di andare in vacanza sull'isola per il rischio di attacchi nei resort. Il passo indietro tra USA e Cuba in seguito a non meglio specificati attacchi acustici subiti da diversi diplomatici statunitensi sull'isola. La decisione del Dipartimento di Stato americano è arrivata 3 giorni dopo l'incontro a Washington tra Rex Tillerson e il ministro degli esteri cubano Rodriguez Paria, il quale non è riuscito a convincere il capo della diplomazia americana che il governo della Havana con gli attacchi non c'entra e può garantire la sicurezza dei funzionari sull'isola. Questi ultimi, a quanto si sa, nel febbraio scorso hanno avuto problemi all'udito e all'equilibrio, che in alcuni casi si sono trasformati in danni permanenti. Non è chiaro cosa sia successo e molti esperti parlano di sistemi di registrazione per spionaggio che non hanno funzionato o dispositivi acustici con ultrasuoni in grado di provocare danni all'udito. Nell'ambasciata statunitense rimarrà solo personale d'emergenza. La decisione di non chiuderla del tutto sarebbe legata al fatto che dietro i fantomatici attacchi acustici non ci sarebbe Cuba, bensì un altro paese, forse la Russia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora invece a Roma, con nuove grane per la sindaca Raggi all'indomani della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda delle nomine, i revisori dei conti del Campidoglio oggi hanno bocciato il bilancio consolidato per l'esercizio 2016, scatenando l'ira della maggioranza 5 Stelle. In Campidoglio è scontro aperto fra il Movimento 5 Stelle e l'OREF. L'organismo di revisione economica e finanziaria del Comune ha bocciato il bilancio consolidato per il 2016, che dovrà essere approvato entro domani. Non rappresenta in modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria di Roma Capitale, scrivono nel loro parere i revisori dei conti. Approveremo lo stesso il bilancio, quello dell'OREF è un giudizio non richiesto, non ci faremo fermare da chi approfitta del suo ruolo tecnico per esprimere giudizi politici, è la replica stizzita dell'assessore al bilancio, Lemmetti. Finita subito sotto attacco da parte delle opposizioni, la maggioranza 5 Stelle in Campidoglio chiede invece le dimissioni della presidente dell'OREF, Federica Tiezzi, e di un altro membro dell'organismo, Marco Raponi, perché indagati per bancarotta. Si tratta di accuse alle quali sono estranee alla mia posizione, verrà presto chiarita, assicura Tiezzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di produzione industriale, che è in crescita a settembre, secondo Confindustria, che lancia l'allarme invece per il codice antimafia. L'economia italiana continua a dare segnali incoraggianti di ripresa, procede infatti a ritmo sostenuto il recupero dell'attività industriale. La produzione a settembre è cresciuta dell'1% su agosto. A rilevarlo il centro studi di Confindustria, spiegando che nel terzo trimestre si registra un incremento congiunturale dell'1,3%. Piccoli segnali, ma pur sempre buone notizie per la nostra economia. Mentre una buona notizia non è, secondo gli industriali, il nuovo codice antimafia approvato dal Parlamento. Secondo il presidente Vincenzo Boccia, infatti, rischia di equiparare l'attività degli imprenditori a quella dei delinquenti. L'estensione del sequestro preventivo ai casi di presunti reati a suo dire stravolge i principi costituzionali e per l'alta discrezionalità che concede mina il bene assoluto della certezza del diritto. Insomma, per Viale dell'Astronomia, da sempre in prima linea nella lotta all'illegalità, i danni supererebbero i benefici. In particolare a preoccupare sono le nuove misure di prevenzione patrimoniale estese anche agli indiziati di associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione. Minacciare il sequestro di beni al semplice sospetto di un reato, ha spiegato il vicepresidente Giulio Pedrollo, non fa che ingessare il paese. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Varie notizie adesso che riguardano la pedofilia. La polizia canadese ha emesso un mandato di arresto per il diplomatico della Santa Sede, Monsignor Carlo Capella, che si trova in Vaticano dove è indagato in un'indagine per pedopornografia dopo essere stato richiamato da Washington a inizio mese. Poi capiamo meglio tra poco di cosa si tratta. Nel frattempo è stato rintracciato Ruggero Conti, l'ex prete condannato per violenza sessuale aggravata nei confronti di minori, che era evaso martedì scorso da una clinica vicino a Roma dove si trovava ai domiciliari. I carabinieri lo hanno rintracciato in una struttura sanitaria di Milano. E sempre a proposito di violenza e pedofilia, la vicenda appunto del maniaco dell'ascensore, fermato ieri a Milano per aver violentato una tredicenne. Lui è Edgar Bianchi, 40 anni, barman. Tra il 2004 e il 2006 diventò l'incubo di Genova, mettendo a segno oltre 20 aggressioni a sfondo sessuale. Condannato a 12 anni, tra sconti e indulti ne ha fatti 8. Ma com'è possibile? Ci si può chiedere che dopo un numero spropositato di aggressioni, pari addirittura a 25, tanto da essere definito stupratore seriale, non fosse quantomeno attenzionato, usiamo per il momento questo termine, poi cercheremo di capire meglio come mai a volte persone con questo tipo di profilo poi sono libere di girare come se niente fosse, dopo che insomma è abbastanza conclamato che hanno, cosa vogliamo dire, inclinazioni di un certo tipo. Ne parleremo con il sottosegretario della giustizia Ferri. E sempre a proposito di violenza sulle donne, domani sabato 30 settembre, sotto lo slogan "Riprendiamoci la libertà", si svolgeranno, vi ricordo, in tutto il paese oltre 100 manifestazioni contro la violenza sulle donne. Intanto proseguono numerose le adesioni all'appello "Avete tolto il senso alle parole" per chiedere agli uomini, alla politica, ai media, alla magistratura, alle forze dell'ordine, al mondo della scuola un cambio di rotta nei comportamenti, nel linguaggio, nella cultura. Tante le adesioni all'appello, oltre 11.000 firme in meno di una settimana, e le donne che hanno annunciato di partecipare alle manifestazioni di domani. Tra i firmatari, nomi noti di diversi settori, della cultura, della politica, letteratura, spettacolo, sport. E a proposito di sport, da segnalare l'adesione delle 12 squadre di calcio femminile di Serie A. Tocca parlare anche di inquinamento. In Italia, record tristissimo, la più sporca d'Europa, e c'è record di morti. I dati emergono dal rapporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile presentato al Senato. È di pochi giorni fa l'annuncio del governo cinese di imporre il divieto di produzione di veicoli a diesel e benzina per abbattere l'uso di fonti fossili entro il 2040. Contemporaneamente si fa sempre più lunga la lista di produttori d'auto che decidono di fabbricare solo auto ibride o elettriche. In prospettiva si può cominciare dunque a sperare, ma nel quotidiano i dati lasciano ancora senza troppo ottimismo. L'inquinamento atmosferico in Europa causa ogni anno la morte di 500.000 persone. Per quanto riguarda i livelli di PM10 e biossido di azoto, più della metà degli stati membri, Italia compresa, è in procedura di infrazione. In Italia la situazione è certo migliorata, ma la qualità dell'aria resta sempre critica, soprattutto in alcune zone. Come sempre nella top 10 dei posti più inquinati c'è il bacino padano, l'area metropolitana di Roma, quella di Napoli, l'area del Frusinate, la Puglia e la costa sud-est della Sicilia. Dati contenuti nel report sulla qualità dell'aria presentato oggi alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Sentiamo il presidente Edo Ronchi. Ci sono anche problemi nuovi, che sono l'apporto di particolato della legna. Dei dati lo indicano come una fonte importante di emissione, questo uso esteso della legna e dei pellet in alcune aree. L'Italia ha bisogno di una strategia nazionale per la qualità dell'aria, per incidere sulle politiche dei trasporti, sull'energia, sull'edilizia, leggi che riguardino il territorio anche per quanto concerne l'agricoltura, responsabile del 96% delle emissioni nazionali di ammoniaca che deriva da fertilizzanti e allevamenti e che, secondo i risultati di alcune indagini a Milano, contribuisce per il 35% dell'inquinamento da PM10. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, così è finito il riassunto della giornata. Poi sapete che vi ricordo ogni tot quali sono i fatti principali, però tra poco, dopo la viabilità, cominciamo ad approfondire, a entrare nel cuore di alcuni argomenti. Tra poco ci collegheremo con Torino, poi con la Spagna e poi cercheremo anche di analizzare questa vicenda di cronaca, che però ci porta a fare riflessioni più ampie, quella del cosiddetto maniaco dell'ascensore. Per la vostra interazione qui con Effetto Notte c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Clotilde la ringrazio, poi dice non ho sentito Salvini per lo scempio del pedofilo, sarà perché è italiano? Ma a onor del vero mi sembra che Salvini, insomma, più o meno in tutti i casi in cui si parla di pedofili o di violenza sessuale parli di castrazione chimica, quindi non penso che faccia questa differenza, magari in questo momento è preso da altro. Christian dice: quando sento certe notizie di violenza su una bambina di 13 anni, ecco, io dentro sento che la giustizia ordinaria, che qui è anche carente, non è sufficiente. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le ricordo brevemente, Roberta Giordano con voi, appena chiuso il riassunto della giornata, è partito alle 21, quindi siate puntuali tutte le sere, e i vostri messaggi, leggo questo al 349-238-6666 di Piero, che diciamo è poco fiducioso nel sentir parlare i politici a proposito di questioni delicate. Tra poco ho detto che dovrei raggiungere il sottosegretario alla giustizia Ferri, dice non c'è chi non veda che l'Italia è governata da un mucchio di pulcinella, dice l'altro giorno domiciliare a un assassino, oggi il violentatore seriale, in Italia si entra e si soggiorna a spese dello Stato senza nessun controllo, veda un po' come si regolano in Germania, Inghilterra, in America, siamo in mano a incapaci, ben pagati, eccetera eccetera. Insomma, diciamo molta sfiducia. C'è comunque questa richiesta ormai ineludibile di maggiore sicurezza e anche di una giustizia più giusta, si può dire, nel nostro paese. Gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dice per esempio Giovanna: anche questo episodio dimostra la poca serietà delle nostre leggi, un essere di quella fatta, il maniaco dell'ascensore, andava tenuto in prigione, non dargli degli condoni o altro, come ho espresso in altre occasioni, si tiene più in considerazione il malfattore che la vittima. Ora vi ricordo i fatti principali e poi dopo ci occuperemo anche di quel tema, ma prima, dicevo, ci colleghiamo con Torino. Intanto questi fatti: resa dei conti in Catalogna, cittadini occupano i seggi a due giorni dal referendum vietato da Madrid, che manda 10.000 agenti e chiude lo spazio aereo su Barcellona. Bocciato il bilancio del Campidoglio, scontro tra il Movimento 5 Stelle e i revisori. E poi tensione tra Stati Uniti e Cuba, Washington ferma il rilascio dei visti per andare a Cuba e richiama anche lo staff della propria ambasciata. Incidenti al corteo anti G7 a Torino, di cui parleremo tra pochissimo. E poi il maniaco dell'ascensore di Milano dice: curatemi, pensavo di esserne uscito ma ci sono ricaduto. Insomma, c'ha al suo attivo forse addirittura una trentina di aggressioni sessuali. Poi pedofilia, mandato d'arresto del Canada per Monsignor Cappella, che si trova in questo momento in Vaticano. Questo è il clima decisamente animato e teso che c'era oggi a Torino, al G7 di Torino, summit tra i 7 maggiori paesi del mondo, in corso alla Reggia di Venaria, contro il quale appunto sono stati organizzati 3 giorni di proteste. Ne sentite un po' il clima: già oggi si sono registrati questi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, cortei di studenti ai quali si sono uniti anche i NOTAV. Chiedo al nostro Marco Panzarella, in diretta da Torino, qual è adesso la situazione, Marco? Ciao. Allora, sì, buonasera. Adesso la situazione è che è stato occupato nel pomeriggio Palazzo Nuovo, che è la sede la facoltà di Lettere e Filosofia qui a Torino, che dista qualche centinaio di metri da Piazza Carlina, dove ha sede invece l'hotel che ospita i ministri e che è al centro della cosiddetta zona rossa, quindi invalicabile. Ci sono dei cordoni di polizia che hanno praticamente chiuso i manifestanti, che non sono tantissimi, circa 300-400, soprattutto provenienti dai centri sociali qui di Torino, quindi a Scaltasuna Gabrio, che sono 2 centri sociali molto attivi, e da Palazzo Nuovo, che è diventata un po' la base operativa per i manifestanti, si preparano le offensive, no? Si cerca di in qualche modo di sfondare il blocco di polizia. La prossima dovrebbe essere annunciata per le 21:30, dopo che oggi ci sono già stati dei tentativi di avvicinarsi, insomma, alla piazza, che però, come dicevo, è blindata, sono circa 2000 tra agenti di polizia, carabinieri e altre forze che in qualche modo hanno blindato quella zona della città. Marco, per domani che cosa hai previsto? Ecco, domani, la tre giorni è cominciata giovedì sera con una street parade che è stata tutto sommato tranquilla, non si è registrato alcuno scontro, a parte qualche iniziativa, ad esempio davanti un supermercato 24 ore per lo sfruttamento. Oggi si è un po' calcata la mano, nel senso che ci sono stati degli scontri, due fermati, due studenti, uno sicuramente minorenne. Domani invece dovrebbe essere il culmine delle proteste, con una manifestazione che inizialmente era annunciata per le 14:30, poi è trapelata la notizia che il summit potrebbe terminare prima e quindi i manifestanti hanno spostato, anticipato la data del ritrovo al quartiere Vallette, che è in periferia a Torino e che è sulla strada per Venaria, alle 10, quindi alle 10 ritrovo in piazza con i manifestanti che, diciamo, non si... ecco, c'è un dubbio su questa cosa, non si sa se possano infiltrarsi nel corteo dei Black Bloc. La polizia fino ad oggi ha negato la presenza appunto di persone arrivate anche da fuori, però c'è questo dubbio, insomma, che in qualche modo tiene alta la tensione. Quindi domani manifestazione a cui parteciperanno antagonisti, sinistra extraparlamentare, sindacati di base, anarchici, quindi insomma tutti coloro che sono contro questo G7. Quindi insomma ci sarà il bel da fare, diciamo, nella città di Torino da parte delle forze dell'ordine, degli amministratori eccetera. Marco, però tutti questi scontri, questi cortei, diciamo, hanno un po' offuscato poi i temi di questo G7, perché devo devo dire che ho visto ben poco di dichiarazioni. Sì, chiedevo in giro prima di che cosa... Io ho seguito gli scontri, quindi non ho seguito i lavori, però anche su internet, facendo, voglio dire, una ricerca veloce, non si trova quasi nulla su quello che ha detto Poletti oggi, che ha parlato con i sindacati, ha parlato visto che il tema centrale è il lavoro, appunto, di questo G7. Sì, si è parlato di pensione, lavoro, però diciamo che la giornata è stata completamente, la giornata dei lavori è stata completamente offuscata da scontri che ci sono stati, ma non sono sicuramente stati violentissimi, nel senso che ci sono due fermi, più che altro si è trattato di studenti, quindi ragazzi molto giovani che hanno cercato di forzare. Però, voglio dire, forse domani, ecco, si attendono scontri un po' più seri. Sì, diciamo che il G7, pochi, quasi nessuno, devo dire, sa di cosa si stia parlando lì a Venaria, mentre invece tanti, c'è tanta preoccupazione, forse anche eccessiva, per gli scontri che ci sono stati. Probabilmente domani invece... magari decollano i contenuti. Ecco, sì, la sensazione è che domani in qualche modo si possa... gli antagonisti, che sono tutte queste forze, insomma, contro, possano in qualche modo forzare la mano. Ovviamente la presenza dei Black Bloc, che il questore, il giorno prima dell'inizio dei lavori al G7, non ha chiarito, su domanda dei giornalisti, la presenza, appunto, se ci fossero o no questi Black Bloc, che ovviamente alzerebbero la soglia d'attenzione. Chiaro. Grazie Marco Panzarella da Torino, grazie e buon lavoro. Prego, grazie. Ciao Marco. Ogni tanto bisognerebbe mettere la sveglia, quella con le lancette, proprio a qualche ascoltatore o ascoltatrice. Ogni tanto qualcuno si sveglia e dice: ma del tale argomento non parlate, magari abbiamo parlato per 5 giorni di seguito. Questo ascoltatore che non si firma dice: del sindaco di Seregno non parlate, abbiamo parlato per 3 giorni del sindaco di Seregno, ancora se ne parla, per carità, non è che se ne può parlare costantemente tutti i giorni. E poi invece scrive Carlo, a proposito delle violenze sulle donne e anche del caso di cui parleremo più tardi sul maniaco dell'ascensore, dice: forse se venissero violentati gli uomini le cose andrebbero in modo diverso. Carlo mi ruba un po' le parole di quando io ogni tanto dico, anche se invece dei femminicidi ogni due giorni e mezzo venissero dei maschicidi da parte delle donne nei confronti degli uomini. Quindi questo è il meccanismo, no? Perché tanti dicono: ma tante persone vengono uccise, ma questo è un meccanismo, un fenomeno culturale ben radicato, purtroppo, no? Quello degli uomini nei confronti delle donne. Se avvenisse il contrario, sicuramente le istituzioni, la politica, anche le forze dell'ordine, la giustizia, tutto si muoverebbe in modo decisamente più concitato e con maggior urgenza. Comunque adesso cambiamo proprio tema, restiamo comunque su forme gravissime di violenza, con il nostro Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta, buonasera. Perché una notizia che è arrivata poco prima delle 20 stasera riguarda l'accusa di pedofilia nei confronti di un alto prelato, perché la polizia canadese ha emesso un mandato di arresto per il diplomatico della Santa Sede, Monsignor Carlo Capella, che si trova in Vaticano, dove è indagato in un'indagine per pedopornografia, dove dopo essere stato richiamato da Washington a fine mese. La polizia di Windsor, scrivono i media locali, i media canadesi, lo accusa di possesso e distribuzione di materiale pedopornografico scaricato durante un soggiorno che il prete ha fatto in Canada tra il 24 e il 27 dicembre. Mi pare una cosa decisamente grave. C'è un mandato d'arresto, Carlo, nei confronti di questo prelato? Sì, ora io vorrei non per difendere, ma lui è, quindi non è accusato di pedofilia, ma di possesso di materiale, che non è la stessa cosa, oggettivamente. Perché, insomma, siccome i magistrati... anche gli americani evidentemente useranno quegli italiani buttare, ecco, quindi è una cosa gravissima, però ecco, come possesso e distribuzione, lui cioè non ha agito questo, lui fisicamente contro qualche minore, ma del materiale esatto, non è accusato di aver molestato o abusato di minori, è accusato di aver scaricato e distribuito del materiale da internet, questa è l'accusa, e lui era stato richiamato in Vaticano un mese e mezzo fa perché il Dipartimento di Stato, lui è un diplomatico, quindi gode di immunità diplomatica, aveva informato il Vaticano che lo avevano, diciamo, beccato a fare questa attività su internet, era stato richiamato, quindi quindi lui è in Vaticano, dove in Vaticano la questione sua è andata alla magistratura vaticana penale, e che se ne occuperà, se ne sta occupando. Ora la novità è che il Canada, perché il Canada e non gli Stati Uniti? Perché lui come dicevi te, Soggiorno. Leggiamo questa notizia insieme a te, nel senso che noi non ne sappiamo al momento di più di questo. Sì, è arrivata un soggiorno in Canada, avrebbe scaricato da un computer della chiesa locale di Windsor, questa diocesi canadese, questo materiale. La questione naturalmente è complicata perché al di là della gravità della cosa, o la presunta gravità della cosa, è che è un diplomatico di medio-alto livello, diciamo, non è un nunzio, non è un ambasciatore, però insomma, diciamo così, qual è stata la novità? È che dopo che è rientrato in Vaticano, la comunicazione alla stampa, al resto del mondo l'ha fatto il Vaticano stesso, non gli Stati Uniti. Quindi questa è stata un po' la cosa, il Vaticano ha detto abbiamo fatto questa cosa qua. E evidentemente è una, come dire, è uno spaccato di una questione complicatissima, grave, e che ha, diciamo, costantemente degli strascichi, però su questo probabilmente ci sarà un processo anche in Vaticano, perché essendo lui un diplomatico, cittadino vaticano, verrà processato verosimilmente in Vaticano. Gli Stati Uniti avrebbero chiesto tempo fa l'estradizione, cioè togliergli l'immunità diplomatica, il Vaticano ha detto di no, quindi ce lo vediamo noi. Verso gli Stati Uniti non ci vedono una di strano, perché gli americani fanno lo stesso, quindi dire che gli americani anzi sono i primi a non far processare mai i loro cittadini in altri paesi, quindi su questo non ho nulla da eccepire sulla decisione vaticana. Comunque, insomma, vedremo quali sono i prossimi sviluppi, no? dopo questa richiesta della polizia canadese. Il processo ci sarà verosimilmente, se ci sarà un processo, perché ancora siamo nelle fasi istruttorie, anzi addirittura prima delle fasi istruttorie, siamo all'inchiesta, diciamo, siccome c'è un altro processo in Vaticano, quello relativo alla presunta distrazione di fondi del bambino Gesù, si dovrà concludere quello di processo, e poi forse ci sarà questo. Andrà verificato se è vero che l'ho fatto, e io personalmente spero che non sia vero, quindi come tutti credo ci auguriamo questi reati, soprattutto da parte dei sacerdoti, ma insomma da parte di tutti indistintamente, sacerdoti e non vengano. Il materiale pedopornografico generalmente, siccome negli Stati Uniti, a differenza di questo, in Italia non è un reato, perlomeno non in questa forma, mentre negli Stati Uniti e probabilmente anche nel Canada sì. Cioè, è trattato un po' diversamente, come, cioè in Italia scaricare del materiale pedopornografico non è reato, almeno non in queste forme, distribuirlo forse sì, però c'è, diciamo negli Stati Uniti lì sono la legislazione è più stretta. Molto più severa. Infatti, un po' in linea con quello che dicevi tu, e giustamente, logicamente, dice un ascoltatore, scrive, poi gli scempi peggiori su pedofilia e pedopornografia ci arriva proprio dal clero, peggiori, ma nel senso, come dicevi tu, che no, proprio dai preti, dalla Chiesa, da coloro che dovrebbero anzi proteggere, confortare, eccetera, è ancora più grave, no? Una persona cioè, nel senso, a cui ci si affida. Fatto 100, sì, no, ma fatto 100 questi tipi di reati, quelli commessi da preti è una piccolissima quota, ma perché sono pochi preti rispetto al complesso della popolazione. Chiaro. Sono però quelli che risaltano maggiormente, questo è un fatto diciamo oggettivo, no? Per cui sono enormemente, come dire, più visibili e noi li riteniamo ancora più gravi, però poi più gravi non lo sono perché lo sono tanto quanto gli altri. Se un bimbo chiaramente diciamo ce lo si aspetta decisamente meno, come dalle forze dell'ordine, no, da chi in genere deve garantire, ecco, no, e te hai citato le forze dell'ordine, è successo recentemente anche se non erano minorenni, quindi ha presunto, è sempre presunto, però ci sono delle accuse molto precise, è chiaro che colpiscono ancora di più, no? Esattamente. Grazie Carlo Marroni. Ciao. Grazie Carlo. Grazie Roberta. Ciao, buona serata. Ci prendiamo questa pausa mentre voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Floriano scrive: come è possibile lasciare in libertà certa gente? E ne parliamo tra poco. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto e anche, se volete, con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo allora con i temi, con gli ospiti, in modo da approfondire alcuni argomenti in particolare. L'avevo annunciato sin dall'inizio, un caso che sta facendo molto discutere, questo del cosiddetto maniaco dell'ascensore, ne parleremo tra pochissimo. Intanto voi continuate con le vostre riflessioni, sia al 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. C'è anche un ascoltatore, vari ascoltatori per esempio, che commentano anche la decisione del sindaco di Pontida, vediamo se ritrovo i vostri messaggi, che è venuto fuori con un'altra uscita oggi dicendo che taglierà le tasse sui rifiuti alle coppie sposate ma non alle coppie gay. Sapete che tempo fa invece aveva predisposto dei parcheggi rosa per le donne purché non fossero omosessuali ed extracomunitari. Allora su questo Davide scrive: episodi già visti in passato, siamo all'inizio di una deriva pericolosa, ancora più grave il fatto che il capo del suo partito, perché il sindaco di Pontida è leghista, non si discosti da questa pagliacciata. Poi molti altri messaggi invece sugli altri temi, in particolare su quello che affronteremo tra pochissimo. Vi ricordo molto velocemente però, se non avete acceso puntualmente alle 21, che queste sono le notizie più importanti della giornata. Spagna, due giorni da referendum per l'indipendenza della Catalogna, vietato da Madrid, cresce la tensione, gli elettori occupano i seggi, se ci bloccate dicono troveremo un'alternativa, e tra poco ci collegheremo anche con Barcellona. Il G7 a Torino, cortei di proteste di studenti e notabili, ne abbiamo parlato, scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, e domani c'è particolare preoccupazione. Stati Uniti, stop ai viaggi a Cuba, Trump verso il ritiro dei diplomatici dall'Havana. Pedofilia, pedopornografia in questo caso, il Canada emette un mandato di arresto per Monsignor Cappella, il diplomatico è stato richiamato da Washington in Vaticano per aver scaricato e distribuito materiale pedopornografico. Roma, l'organismo di revisione boccia il bilancio della capitale, ma l'assessore commenta: fanno politica, noi andiamo avanti. Del violentatore seriale arrestato a Milano ne parleremo tra pochissimo. E poi, per quanto riguarda l'inquinamento, in Italia l'aria più sporca d'Europa e il record di morti emerge dal rapporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Sforzo intensissimo, siamo partiti da poco e niente, ma lavorando ininterrottamente, 24 ore appunto con 150 uomini per strada a Milano, siamo riusciti a restringere prima il campo e poi a esercitare una pressione investigativa totalmente alta, che la persona si è vista costretta a presentarsi in procura con un avvocato per ammettere di essere l'autore di una violenza sessuale ai danni di una ragazza. Questo ve l'ho fatto sentire anche all'inizio, è Lorenzo Bicossi, che è dirigente della Mobile di Milano, che ha raccontato appunto come è avvenuto l'arresto di quest'uomo di 40 anni, Edgar Bianchi, professione barman, che ha come ulteriore attività anche quella di violentatore seriale, a quanto pare. Infatti Bianchi tra il 2004 e il 2006 diventò l'incubo di Genova, mettendo a segno oltre 20 aggressioni, c'è chi parla di 25, tutte a sfondo sessuale. Il modus operandi era sempre lo stesso. Cosa faceva? Sceglieva le sue vittime sempre tra un'età compresa tra i 13 e i 19 anni, le seguiva all'uscita della scuola, poi una volta arrivati nel palazzo, nell'androne, scattava la violenza, in particolare appunto nell'ascensore, per questo chiamato il maniaco dell'ascensore. A Genova poi, dopo lunghe indagini, si è arrivati a identificarlo, è stato poi condannato a 14 anni, poi tra vari sconti sono stati ridotti a 12 e poi con i vari indulti a 8 anni, anche se qui ci si chiede, ma non avevano i politici assicurato che con i vari indulti, dagli indulti erano esclusi i reati più gravi, quindi reati di mafia, omicidi e violenza sessuale? In questo caso però lui era fuori anche grazie agli indulti, cioè nel senso la pena era stata ridotta a 8 anni anche grazie agli indulti. È uscito insomma nell'agosto del 2014, una volta libero ha cambiato città, si è diciamo così rifatto una vita, ha detto che aveva una fidanzata con la quale voleva sposarsi, finché è ricomparso ieri nel quartiere San Siro a Milano con la stessa identica modalità. Ha individuato una ragazzina di 13 anni che usciva da scuola, l'ha inseguita e poi nell'ascensore l'ha violentata. Nel giro di 24 ore, come spiegava il dirigente della squadra mobile, per fortuna è stato identificato, e quando il cerchio si è stretto intorno a lui, diciamo, è stato gioco forza costretto a presentarsi alla procura per costituirsi. Ora si cerca di capire se è anche l'autore di altre violenze che sono avvenute proprio a Milano. Ne voglio parlare perché la domanda, no, come altri casi che vi ho sottoposto in questi giorni e che dopo ricorderò, è come mai una persona, un uomo con un profilo di questo tipo non fosse perlomeno periodicamente controllato, insomma, dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, da chi può avere competenza di tenere sotto controllo un personaggio di questo tipo. Saluto Cosimo Maria Ferri, che è sottosegretario alla giustizia. Buonasera Ferri. Buonasera a voi. E grazie della disponibilità. Allora, prima di tutto alla domanda, lei che cosa risponderebbe, visto che è anche magistrato e oltre che sottosegretario alla giustizia? Com'è possibile che un uomo del genere, dopo che sono state accertate 20, tra le 20 e le 25 aggressioni a sfondo sessuale, lo riprendiamo subito il sottosegretario, probabilmente era in viaggio, questa... E sono gli imprevisti della diretta, come sempre. Quindi ricordo tra l'altro che già sta facendo molto discutere la sentenza di cui abbiamo parlato anche ieri o l'altro ieri, se non sbaglio, ieri, con un esperto dell'osservatorio di diritto di famiglia. Ecco, lo abbiamo recuperato? Sì, ci siamo. Sì, ci siamo, ecco, meno male. Allora, Ferri, le dicevo, di fronte a una domanda comprensibile, no, dall'opinione pubblica, ma di buon senso, che cosa lei, che è anche magistrato, che è sottosegretario alla giustizia, che cosa risponde? Ma intanto bisogna verificare bene tutti i fatti che sono stati narrati. È chiaro che se le cose stanno così come vengono descritte, sono fatti talmente gravi che non può esistere un'impunità, quindi deve esserci una certezza della pena, una giustizia giusta, e le regole ci sono, quindi se te vieni condannato devi scontare una pena. Non so quante condanne definitive questo soggetto. La condanna era 14 avuto. Anni per quelle 20 aggressioni, 14 anni quando era stato individuato a Genova, poi per vari sconti, sappiamo ci sono sempre degli sconti, a 12 anni e poi con i vari indulti a 8 anni, però le ripeto, noi eravamo come cittadini comuni rassicurati che dagli indulti venivano esclusi i reati più gravi, no? Di mafia, omicidi, stupri. No, ma quelli sono esclusi, bisogna capire intanto. Però sembra che proprio grazie agli indulti. Bisogna capire quando sono stati regolati 14 anni, quanti, lei parlava di 20 aggressioni. Sì, dai 20 ai 25 dicono addirittura. Esatto, la legge prevede che si possono dare pene molto più alte, perché la continuazione c'è un aumento di pena di un terzo per ogni singola condotta. È chiaro che poi non si dà mai il massimo, però le norme ci sono, poi sta al giudice valutare a seconda del fatto la pena da erogare e anche come calcolare l'aumento della pena per le condotte che sono state poste in essere. Quindi i 25 episodi potevano essere, per la legislazione attuale, essere puniti con pene molto più gravi. Appunto. Addirittura potevano arrivare a pene anche di 50-60 anni di reclusione, ora non so nello specifico, ma sicuramente più dei 14 anni. Quindi questa è una valutazione, una precisazione che va fatta, che comunque le leggi ci sono, e poi è chiaro, dipende dai fatti, come il giudice rapporta poi il fatto all'irrogazione della pena, perché mantiene una discrezionalità. Su questo il governo, tra l'altro, sono state anche inasprite le pene, sono state eliminate tutta una serie di benefici anche penitenziari per tutti questi tipi di reato. Quindi la legislazione è una legislazione severa e certa, perché sono fatti gravissimi sui quali non si possono fare sconti, e la risposta deve essere efficace e certa. Anche perché altro queste ragazzine, quello che poi bisogna fare per cercare di recuperare, in questo caso, chi commette questi delitti così ha diritto a un recupero, che deve essere un recupero però serio. Quindi noi crediamo in una pena che sia certa, che sia però rieducativa, e però chi è autore del reato deve dimostrare di aver cambiato vita, di aver cambiato... Ora lui dice: voglio farmi curare, pensavo di non ricaderci. Però, sottosegretario Ferri, il problema è che di fronte a queste cose ci si sente spesso ripetere dai politici: le leggi ci sono, vanno applicate. È possibile che dipenda un po' troppo, forse a volte, dalla discrezionalità dei magistrati? Per esempio, faccio il caso di altri episodi di questi giorni che hanno un po', diciamo, indignato. Il caso dell'uomo che a Udine lo scorso 31 luglio ha ucciso la fidanzata di 21 anni, che poi ha girato per ore con il suo cadavere in auto, e poi alla fine è andato dalla polizia. Dopo meno di due mesi è andato agli arresti domiciliari. Ora, ci saranno state delle motivazioni. So che la senatrice Puglisi, che è presidente della commissione parlamentare sul femminicidio, ha chiesto l'accesso agli atti per capire com'è possibile che sia stata presa questa decisione, magari motivatissima, però certo. Tutte queste cose, come anche ieri il fatto che la Cassazione abbia tolto, annullato l'ergastolo e chiesto di riquantificare la pena all'uomo che aveva ucciso il figlio, che si era frapposto tra lui e la moglie perché lui voleva dare la coltellata alla moglie, è stato annullato l'ergastolo perché il figlio in realtà era adottivo, quindi come se valesse meno la sua vita rispetto a un figlio naturale. Ecco, tutti questi episodi rischiano un po', sottosegretario Ferri, di ingenerare una certa sfiducia nella giustizia, no? Che sembra quasi più garantista verso chi commette dei reati così gravi e molto meno riparatoria, almeno verso le famiglie delle vittime, visto che le vittime non ci sono più, oppure hanno, insomma, sono segnate a vita, come tutte queste ragazzine vittime del maniaco dell'ascensore, no? Non pensa che forse qualche legge potrebbe essere corretta, visto che non è impressa col fuoco nella pietra? Ma intanto occorre precisare che, per quanto riguarda la vittima, io sono d'accordo che debba avere sempre più tutele, e infatti sono stati fatti tutta una serie di provvedimenti in questi ultimi anni a favore della vittima, non solo dal punto di vista dell'indennizzo economico, ma anche come diritti e garanzie. Sono state recepite una serie di direttive comunitarie che proprio consentono oggi una maggior tutela alla vittima. Quindi la vittima è una parte del processo che deve avere più garanzie e più diritti. Per quanto riguarda poi il fatto che lei raccontava del figlio adottivo e il figlio naturale, in questo caso secondo me va cambiata la norma, perché abbiamo una norma civile che consente l'equiparazione tra figlio adottivo e figlio legittimo, e invece la norma penale che non ha... Che fa la distinzione, andrebbero equiparate, no? A questo punto diventa inaccettabile davvero questa discriminazione. Anche perché con la legislazione attuale, essendo un principio, cioè nel penale c'è un divieto di analogia quando è sfavorevole all'imputato, in questo caso non si può applicare analogicamente la norma civilistica anche alla fattispecie penale. In questo caso va modificata, perché la norma penale prevede, per esempio, l'aggravamento solo quando è discendente, quindi quando sei provieni dallo stesso, sì, dallo stesso sangue. Comunque, delle cose è chiaro. Quindi, anche su questo sicuramente occorre una modifica normativa. Per quanto riguarda l'episodio di Udine, il GIP aveva dato la custodia cautelare in carcere, che era stata richiesta dal pubblico ministero, che tra l'altro penso che poi ricorrerà in Cassazione, almeno leggendo i giornali. Il Tribunale del Riesame ha stabilito invece che le cautelari fossero garantite con il braccialetto elettronico e quindi con gli arresti domiciliari e con l'applicazione del braccialetto. Sono valutazioni diverse nella dialettica processuale. Certo è che noi dobbiamo puntare a un processo penale veloce, perché nel caso di Udine comunque la custodia cautelare in carcere è un'anticipazione della pena, qualora l'importante è che il processo sia veloce e la sentenza comunque la pena detentiva. Ecco, che la sentenza sia chiara e la pena certa, come si diceva. Sottosegretario Ferri, ci dobbiamo lasciare e spero appunto di non dover riaverla per altri motivi, di non dover ritornare appunto a chiedersi se certe leggi vadano corrette o meno, perché proprio diventa una questione di senso comune, di buon senso, di senso anche dell'equità, della giustizia, che diciamo è un bisogno primario di ogni società. Grazie sottosegretario Ferri. Ti ho ascoltato, buonasera. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Fra le notizie più importanti, l'avete sentita, questa vicenda di cui abbiamo appena parlato, del maniaco dell'ascensore, poi del G7 a Torino con gli scontri e le provocazioni, soprattutto per domani, e poi la Spagna. Ci colleghiamo proprio adesso con la Catalogna, con Barcellona, con il nostro Mario Magarò. Ciao Mario. Ciao Roberta. Siamo a due giorni dal referendum per l'indipendenza della Catalogna, assolutamente vietato da Madrid, tanto che ha ordinato il blocco anche dei voli di aerei e elicotteri sul cielo di Barcellona, quindi la situazione si è sempre più tesa, si parla continuamente di tensione in questi giorni, no? A proposito di questo referendum, dell'avvicinarsi alla data del voto che è domenica. Madrid ha mandato un sacco di forze dell'ordine, mi pare 100.000 uomini e oltre, per cercare di bloccare questo referendum. Adesso che situazione c'è lì a Barcellona, Mario? Allora, io in questo momento mi trovo ai piedi della collina del Montjuïc, sto assistendo all'atto di chiusura della campagna referendaria in favore del sì. Come potrete, credo, insomma, immagino sentire, no, sul sottofondo, qui il colpo d'occhio è impressionante. Sono migliaia le persone che sono accorse, ancora non sono usciti i dati ufficiali, ma sono davvero davvero tanti. La folla trasuda voglia di referendum e voglia di indipendenza. Fino ad ora sono intervenuti vari esponenti, vari rappresentanti dei partiti indipendentisti che hanno ribadito assolutamente che domenica si voterà. Evidentemente la manifestazione che attualmente è in corso contrasta pienamente con le dichiarazioni fatte oggi dal portavoce del governo spagnolo, Íñigo Méndez Veríco, che ha detto chiaramente che secondo il governo spagnolo il referendum non si terrà, ed ha parlato di responsabilità penali e patrimoniali per gli organizzatori del referendum in testa al presidente catalano Carles Puigdemont. Come dicevi tu, Roberta, Barcellona è una città attualmente piena di forze di polizia, sono circa 10.000 i numeri inviati ufficiali, quelli delle forze di polizia inviate da Madrid, 4.000 agenti sono stipati, due traghetti noleggiati alla compagnia Grandi Navi Italiana, Grandi Navi Veloci, che attualmente sono attraccati al porto di Barcellona. Siamo quindi ufficialmente nel countdown, siamo a 48 ore dal referendum e da oggi pomeriggio le principali associazioni di indipendentiste catalane hanno chiamato la cittadinanza ad occupare i collegi elettorali, quindi le scuole, in modo tale da impedirne una preventiva chiusura da parte della polizia. Si sono infatti già registrati momenti di tensione con la polizia catalana, la quale però ha dichiarato attraverso le parole del comandante della polizia catalana Giuseppe Trapero, ha detto che la polizia catalana la consegna data ai poliziotti quella di non usare la violenza. Ecco, quello che ci auguriamo, Mario Magarò, e tra l'altro con te, anche con i colleghi qui di Radio 24, seguiremo in questi due giorni questo percorso verso il referendum, se il referendum ci sarà, capiremo insomma come evolve la situazione. Grazie Mario Magarò da Barcellona, buon lavoro. Ciao Mario. Roberta, grazie a voi, ciao. Ora invece il nostro Paolo Corazzon ci dirà che tempo fa. Paolo Corazzon di Trebimeteo. Buonasera Roberta, guarda, fine settimana senza infamie e senza lode, però tutto sommato discreto, eh. Partiamo dal sud, dove da giorni che piove, bene, la situazione migliorerà, domani ultimi piovaschi tra Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, ma poi se ne vanno, quindi al sud il tempo torna a essere più tranquillo. Il centro-nord invece avrà a che fare con il ritorno di un po' di nuvole, ma sostanzialmente solo nuvole, specie tra sabato sera e la giornata di domenica, quindi weekend un po' più grigio, qualche debole pioggia solo nella notte tra sabato e domenica al nord-ovest, ma ti ripeto, tutto sommato grandi cose non capitano, l'autunno per ora fa il bravo, diciamo così. Molto bene, se ne stia lì nel suo cantuccio per il momento, grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Ciao, buon tempo a tutti. Ciao Paolo, ci risentiamo alle 22.